criminal, dottori della dopa e cash, cultori della mega onda, prescrivendo bombe al flash, dero per la resistenza, respiro che avanza a velocità doppia. Come stiamo? Beh, siamo una bomba solo alla quarta riga di Bamba. Non rima solo il rimba, bullizzato dal resto della banda, preso a miro tra artisti poliedrici, sociologi di psicologia e torture alle narici, con cocchi ed oppiaci e giubbotte, poi come ai lerci nazi, gli altri vanno in bici, noi cavalchiamo i razzi. Dopo questo amico è morto, che ne dici? Meglio che da Varese sparisci, non farti più vedere, altro che bel sedere, due calci di una colta col calcio e noi bocca bel vedere. Traffici d'armi, a sto punto passiamo alle amarmi o armi, armiamoci contro i tempi cupi da buttare giù duri, giorni duri come macigni cubi, noi che siamo vivendo come i lupi, lo speedbull ci sta rendendo culti e invincibili, in vetta fatti di acidi e ali, giorni mortali negli annali scritti indelebili, siamo criminali, criminali, criminali, criminali. Siamo criminali, dottori della dopa e cash, cultori della mega onda, prescrivendo bombe al flash, vero per la resistenza, respiro che avanza, velocità doppia. Come stiamo? Beh, stiamo una bomba, solo la quarta riga di Bamba. Non rima solo il rimba, bullizzato dal resto della banda, preso a mira tra artisti poliedrici, sociologi di psicologia, torture alle narici con coca e doppiace e giubbotte, poi come ai lerci nazi, gli altri vanno in bici, noi cavalchiamo i razzi. Poi dopo questa vivo e morto, che ne dici? Meglio che da Varese sparisci, non farti più vedere, altro che bel sedere, due calci di una colpo col calcio e ne manca bel vedere. E nel vodka bel vedere, vodka bel vedere, traffici di armi, a sto punto passiamo alle amami o armi, armiamoci contro i tempi cupi, da buttare ci muri, giorni duri come macigni cupi, noi che stiamo vivendo come i lupi, lo speedbull ci sta rendendo culti e vincibili, in vetta fatti di acidi e ali, giorni mortali, negli annali scritti indelebili, noi siamo criminali, criminali, criminali.